24 mattino di Alessandro Milan. 7:20 minuti, eccoci qua, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9. Allora, di cosa parliamo anche oggi? Parliamo di politica, perché va così, insomma, è arrivata la fiducia, lo sapete, per 3 voti alla Camera. Vi chiediamo, con 3 voti, secondo voi il governo reggerà fino alla fine della legislatura? Questo è il tema del nostro sondaggio. Parliamo di politica, dunque, alle 8:30. Voi votate su radio24.it nell'home page, bianco o nero. E che dire, andiamo proprio alla lettura dei giornali in edicola. In primo piano. Mercoledì 15 dicembre, l'apertura è unanime sulla vicenda politica, ma anche sulle questioni di tensione sociale, gli scontri ieri a Roma. Dal Sole 24 Ore, governo salvo per 3 voti, Roma sconvolta dai disordini. Per il Corriere, Berlusconi vince e apre all'UDC. Per Repubblica, Berlusconi si salva per 3 voti. La Stampa, vince Berlusconi, guerriglia a Roma. Cito come aperture, ha vinto l'Italia peggiore, per il Fatto Quotidiano, mentre Libero mette un disegno di Berlusconi che fa un grandissimo gesto dell'ombrello, e il titolo è Tiè, che goduria, la vendetta. Ma insomma, queste alcune delle aperture, tutte declinate su questo tema politico. Ne volete un'altra? L'Unità. Governo Scilipoti, questo è il titolo dell'Unità di prima pagina. Io voglio andare con le consuete segnalazioni che arrivano dal fronte traffico e viabilità. Una notizia positiva e una notizia negativa. Cominciamo con quella bella, la città delle bici. Le città delle bici è la classifica di Legambiente sull'indice di ciclabilità. Ne parla il Corriere della Sera, pagina 33. Volete sapere qual è la città più ciclabile secondo i parametri di Legambiente, cioè i metri ciclabili per abitante, tenendo conto di lunghezza, tipologie delle piste ciclabili? Reggio Emilia. Reggio Emilia vince con 34,86 metri di ciclabili per abitante davanti a Lodi, Modena, Mantova, Vercelli, Cremona, Forlì, Ravenna, Cuneo, Ferrara. Questi i primi 10 posti. Volete gli ultimi 10? Ultima a pari merito Isernia e Nuoro, con zero metri di ciclabili, zero metri, cioè manco mezzo centimetro di pista ciclabile per abitante, zero di zero. Poi Avellino, 0,11 metri, Genova, 0,16, Taranto, salgo la classifica dal basso, Reggio Calabria, Catania, Chieti, Bari, Messina, Trapani, Cagliari, all'81esimo posto. Le città delle bici vince Reggio Emilia. Questo Alessandra Mangiarotti ne parla, pagina 33 del Corriere della Sera. Beh, una classifica interessante, e anche un commento dello scrittore Enrico Brizzi, che racconta dalle mondine agli immigrati la mia regione che va a pedali. A proposito di traffico, beh, questa è una bella notizia, perché incentivare l'uso della bicicletta è sicuramente interessante e bello. E poi, voi che siete nel traffico, volete sapere invece quella che è una classifica decisamente negativa? Pagina 23 di Repubblica, secondo l'osservatorio TomTom, ecco l'elenco delle 10 vie comunali più trafficate d'Italia. La classifica dell'immobilità. Vince con la strada più trafficata d'Italia Palermo. Qual è la strada? È Viale Regione Siciliana. 12 chilometri funestati quotidianamente da un flusso ininterrotto d'automobili, bloccata 365 giorni l'anno. Magari ci state ascoltando e siete in macchina in Viale Regione Siciliana. Auguri, auguri, tenete duro, anche oggi c'è traffico lì. E poi, qual è la seconda via più trafficata d'Italia? Terrorizza gli automobilisti nel cuore di Torino, via Francesco Cigna, 1,5 chilometri di coda perenne, intasata 81 ore alla settimana. La terza strada è un po' insolita, via Vittorio Veneto a Cassano d'Adda, in provincia di Milano. E poi, dal quarto al sesto posto, 3 strade di Milano, del centro di Milano, o comunque della città di Milano: via Lunigiana, che è una zona circonvallazione nord, via Porpora, E la centrale via Pontaccio. Queste sono tre vie di Milano perennemente, comunque spesso bloccate. A Roma invece due strade si sono meritate il riconoscimento al negativo, sono via Salaria e via Veneto. Percorrete queste strade magari quotidianamente con le vostre imprecazioni al traffico, sappiate che è un classicone. Per queste vie, le strade più trafficate d'Italia, vince Palermo. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:22 minuti il protagonista della nostra intervista oggi è il senatore Enzo Bianco del Partito Democratico, che saluto. Buongiorno senatore. Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori. Come sta innanzitutto? Perché abbiamo letto di una scazzottata in Senato. No, guardi, sto bene, ho passato la notte tranquilla, serena, non voglio assolutamente drammatizzare una vicenda sicuramente grave, ma non ho ripercussioni sul piano fisico. Ieri mi hanno ricoverato in infermeria al Senato, mi hanno tenuto un po' di tempo in osservazione, non ci sono danni gravi, ho ricevuto soltanto due pugni in faccia. Rispetto a quello che è accaduto a Roma ieri, diciamo che è una balzecola, naturalmente è molto grave che questo sia accaduto in Senato. Tra l'altro nella commissione, no? Durante i lavori della commissione congiunta affari costituzionali e commissione giustizia, stavamo lavorando molto seriamente su un decreto legge che va convertito rapidamente in materia di sicurezza proprio, e c'era un impegno del governo solennemente assunto da Maroni, diciamo alcuni mesi fa, di introdurre nuove norme nella lotta contro la criminalità nell'ordinamento italiano. Questo impegno, ahimè, non è stato mantenuto. Noi stavamo presentando degli emendamenti e il Presidente della Commissione Giustizia, con un fare, devo dire, francamente da noi non condiviso, li stava dichiarando inammissibili. Ecco, posso leggere quello che racconta Il Fatto? Il Fatto Quotidiano la mette così: lei avrebbe strappato il microfono dalle mani di Filippo Berselli, che è Presidente di Commissione Giustizia. No, ho spostato il microfono. Atto di protesta, non glielo ho strappato. Vabbè, non teneva il microfono in mano. Spostato. A quel punto è successo un parapiglia, cioè alcuni deputati, senatori, il senatore Mugnai del PDL e Balboni del PDL sono arrivati. E che è successo lì? Ci dica lei. In questo parapiglia mi sono arrivati due bei colpi in faccia, uno sulla bocca, sul labbro, a parte destra del labbro, e uno sullo zigomo nel lato sinistro. I miei colleghi mi hanno portato immediatamente in infermeria, lì mi hanno sottoposto alle cure del caso, ripeto, con prontezza e immediatezza, un episodio sgradevole, nulla di più. La cosa grave evidentemente è che in un clima come questo, anche nelle istituzioni tra virgolette sacre, il Senato e il Parlamento, succedono cose gravi. Infatti, perché si pensava che il peggio era successo ieri alla Camera, no? Anche con insulti, spintoni, e invece nelle in commissione, come lei sa, o come chi frequenta, non ci sono le telecamere. Non ci sono le telecamere, quindi non c'è bisogno di fare la sceneggiata, ma normalmente nelle commissioni il confronto è sul merito delle questioni, anche serrato, anche duro. Credo che non sia mai accaduto, almeno che io ricordi, un fatto di questo, e la dice lunga sul fatto che c'è un clima di violenza, di intolleranza, che purtroppo è entrato anche nelle istituzioni, e questo mi addolora profondamente. Senta, ma chi le ha dato pugni? Perché il senatore Balboni ha detto: chi dice che ho dato dei pugni a Bianco verrà querelato. Non è vero? I pugni li ho presi io, ho visto chiaramente, mi ha dato un pugno con le nocche da colpo proprio e un altro con il palmo della mano sullo zigomo a strisciare. Chi? Lui? Il senatore Balboni proprio? Assolutamente. Il senatore Mugnai si è limitato a spostarmi con uno spintone energicamente, ma devo dire i due pugni li ho ricevuti dal senatore Balboni, come dimostrano e possono confermare tutti quelli che erano lì e che hanno visto con grande nitidezza questa aggressione. Che qualcuno ha già ribattezzato il senatore Balboa come Rocky Balboa, se ci permette. Devo dire che mi dicono anche che è un esperto di karate, quindi lo ringrazio scherzando. Di karate? Dicono, non voglio dire, non ne sono sicuro. Si scherza certo, perché... Vorrei anche scherzarci, drammatizzarla più di tanto, ripeto, però è un sintomo grave di una mancanza di credibilità dell'istituzione. Quando si arriva a questo livello e ci sono persone che, anziché il confronto con le parole o anche con i gesti di protesta civile, passano poi alle vie di fatto, questo non è un esempio bello che noi diamo fuori dal Parlamento. Salutarla e nel ringraziarla, senatore Bianco, le chiedo, lei è stato anche ministro dell'Interno, ieri a Roma è successo quello che è successo, lo sappiamo, il ministro Maroni ha detto poteva scapparci il morto, lei che ne pensa? Beh, ho visto alcune scelte scene veramente drammatiche, in particolare quell'aggressione a quel finanziere a terra col tentativo di togliergli la pistola, lì effettivamente poteva succedere un episodio tipo Giuliani a Genova. C'è una manifestazione pacifica di decine di migliaia di studenti, c'è un gruppo di facinorosi che sono venuti scientificamente organizzati da alcune città, in particolare del nord, mi si dice del nord-est, con l'intento di trasformare Roma. Ora questo naturalmente è una questione su cui guardare con molta attenzione, c'è un clima pericoloso in questo momento nel paese, senza fare allarmismo, ma io credo che su questi argomenti tutti dovremmo unirci, dare sostegno alle forze di polizia, consentire ogni forma di protesta civile, perché la democrazia vuol dire questo, ma nello stesso tempo stare attenti perché ci sono aree di violenza che covano in modo sotterraneo e che possono esplodere. La ringrazio, grazie per essere stato con noi, il senatore Enzo Bianco del Partito Democratico, che ci ha raccontato quello che nelle stanze della commissione, dove non entrano le telecamere, è successo ieri, una scazzottata. E allora noi ci fermiamo, pubblicità e meteo, poi parliamo sempre di politica. Vi chiediamo, con 3 voti ottenuti, la fiducia per 3 voti, secondo voi il governo reggerà così com'è? Questo è il tema del nostro sondaggio, votate su radio24.it oppure 800 24 00 24, che ne pensate anche del clima di Roma? 24 mattino. Alle 8:34 minuti, quello che ci vogliamo chiedere nel nostro sondaggio è questo: secondo voi, ottenuta la fiducia con 3 voti, il governo può reggere con questi numeri? È il tema del nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, ne parleremo tra poco con i direttori di 2 giornali, che sono Il Fatto Quotidiano, il direttore Antonio Padellaro, che saluto, buongiorno direttore. Buongiorno. Così come Mario Secchi, direttore del Tempo, buongiorno Secchi. Buongiorno. Io però vorrei dare la precedenza, lo ringrazio perché l'abbiamo rubato ai lavori, credo, di una commissione. Il senatore Alfredo Mantovano, sottosegretario agli interni, il senatore, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, agli ascoltatori. Senta, le chiedo la domanda politica. Secondo lei, con questi numeri, può reggere il governo o ci vuole l'allargamento, come si auspica Berlusconi? Con questi numeri è difficile adottare quelle decisioni di governo che richiedono ancora oggi i mercati internazionali e che richiede il mantenimento della stabilità economica e finanziaria di un paese che ha sfiorato l'orlo della crisi e riesce a starne fuori, a differenza di altri, la Grecia, l'Irlanda, la Spagna, proprio perché vi è stata una continuità di azione di governo e una maggioranza solida alle spalle. Adesso questa maggioranza è obiettivamente più circoscritta e questo in prospettiva crea dei problemi. Quello che è successo a Roma, nelle strade, non all'interno dei palazzi del potere, le chiedo, anche lei dice e pensa come il ministro Maroni che poteva scapparci il morto? Guarda, io sono andato materialmente in Via del Corso nel momento più topico degli scontri e le scene le abbiamo viste tutti anche attraverso i media. Non è bello che una legittima protesta studentesca o una più ampia protesta politica sia poi strumentalizzata da qualche centinaio di violenti di professione che si organizzano, utilizzano momenti difficili, le mozioni di sfiducia discusse dentro il Parlamento, una riforma dell'università di cui gran parte dei protestatari non conoscono neanche i passaggi essenziali, altrimenti non la contesterebbero con tanta virulenza, per mettere a ferro e fuoco una città. Io approfitto della circostanza, perché non è mai sufficiente, per esprimere il massimo della gratitudine a tutti coloro che hanno difeso la nostra sicurezza, la sicurezza delle istituzioni in un momento così delicato, e lo hanno fatto col massimo della professionalità, perché non è facile. Io in quasi 8 anni di presenza al Viminale ho imparato poche cose, tra queste che la gestione dell'ordine pubblico è quell'aspetto della sicurezza quotidiana che è più difficile in assoluto. Dopo, tutti sono bravi a dire come si doveva fare, quale vie si dovevano intercludere, quali si dovevano permettere. È prima che è complicato, è durante, quando c'è, come è capitato ieri a un finanziere, di vedersi addosso 20 energumeni che tentavano di strappargli l'arma. È lì che bisogna dimostrare il massimo della professionalità ed evitare reazioni che possono degenerare, far andare alla memoria episodi del passato. E infatti era proprio quello che volevo chiederle in conclusione, l'immagine, quell'immagine sicuramente fa molto, mette anche un po' di inquietudine, cioè un finanziere che è stato costretto a impugnare l'arma d'ordinanza con la mano sul grilletto, ecco, lei vedendo quell'immagine che considerazione fa? Ma dico che dobbiamo tutti passarci una mano sulla coscienza, nel senso che nessuno vuole negare gli spazi e ancor meno la legittimità della protesta, ma c'è una linea di confine invalicabile tra la protesta e la violenza, soprattutto la violenza organizzata, la violenza che individua degli obiettivi nei tutori dell'ordine e magari tenta di isolarli rispetto agli altri e cerca volutamente l'incidente, anche l'incidente grave, per poi scatenare ulteriori violenze. Su questo la compattezza deve essere massima e se possibile deve anche evitare di moltiplicare le occasioni per scatenare queste violenze. Io la ringrazio davvero, sottosegretario, per essere stato con noi. Alfredo Mantovano, che appunto lavori in commissione, la lasciamo agli impegni istituzionali, e siamo appunto con il direttore Antonio Padellaro del Fatto e Mario Secchi, direttore del Tempo. Direttore Padellaro, voi avete messo sul Fatto, col sottotitolo oggi, ha vinto l'Italia peggiore, che cosa? Un momento della rissa alla Camera, poi abbiamo scoperto poco fa che c'è stata anche una rissa al Senato ieri con pugni che sono volati, e invece gli scontri di Roma. Perché ha titolato un giorno buio oggi il suo editoriale? Ma più che per l'esito del voto, perché diciamo che i meccanismi parlamentari sono quelli che sono, e quindi se Berlusconi ha portato a casa una maggioranza risicata, sono d'accordo con quello che diceva Mantovano, una maggioranza praticamente ormai inesistente, per il modo con cui ciò è avvenuto, perché abbiamo visto tutti quelli che hanno visto la diretta, questi tre deputati guidati da questo Scilipoti, Cesaro e quell'altro, non mi ricordo come si chiama, Calearo, sì, di Quini, presentarsi all'ultimo momento, l'ultima chiama per dire eccoci qua, Berlusconi, eccoci qua, siamo noi che con questi tre voti. Insomma, io trovo che va bene tutto, ma sì, effettivamente ci sono stati anche in passato passaggi dall'ultimo momento, dalle file della destra alle file del centro-sinistra, non so se sono stati, come sono stati ricompensati, ma cioè tutto questo però non può sanare una un'immagine del Parlamento ridotto effettivamente al mercato delle vacche, poi per cosa? Non certamente per tenere in piedi un governo, perché ma è evidente che questo governo va verso le elezioni anticipate, quindi l'obiettivo di Berlusconi era duplice, il primo era quello di distruggere Fini e in parte ci è riuscito, ha cominciato a distruggerlo, diciamo così, il secondo era quello di evitare il famoso governo tecnico. Sì. E questo era il fantasma, lo spettro che angustiava Berlusconi, ecco, tutto questo, questa specie di messa in scena penosa. Una prova di forza con Fini, effettivamente, perché già Future Libertà si è in parte spaccata con tre voti dei finiani che hanno sostenuto Berlusconi. Detto che il 68% dei nostri ascoltatori dice no, così il governo non può reggere, questo è il nostro sondaggio, ma vorrei anche il parere di Mario Secchi, direttore del Tempo. Effettivamente sono un po' tutti concordi, mi pare di capire, che così, con tre numeri, con tanti parlamentari che sono anche impegnati nel governo, lo stesso Berlusconi dovrebbe andare a votare alla Camera, non so. Tremonti invece che andare all'Ecofin dovrebbe tornare a votare alla Camera, se no questi tre voti non ci sono più. E questo Secchi... Intanto vorrei ricordare che nella storia esistono anche i governi di minoranza, ma detto questo, e quindi le formule di governo si sprecano, se vogliamo, ma detto questo è chiaro che è più difficile, no? E a tratti forse anche impossibile poter governare con tre voti. Ora Berlusconi può darsi che sia invecchiato, ma non è del tutto scemo come pensa qualcuno, cioè questo lo sa benissimo. In realtà quella che è stata compiuta ieri è un'operazione politica importantissima, mi stupisce che ancora qualcuno non l'abbia capito, che aveva un duplice obiettivo. Il primo era quello di ridurre Fini a quello che è, non a quello che non è, e cioè non è uno statista. e non è neanche un leader. Cioè la rottamazione di Fini ieri in Parlamento è stata una delle cose più importanti, lo dico guardandola dall'ottica del PDL, no? Che siano mai state fatte nell'ultimo anno, questa è la verità. Cioè, si è raggiunto un obiettivo enorme sotto il punto di vista del significato della comunicazione e della pratica politica. Cioè Fini voleva abbattere Berlusconi, non ci è riuscito. Questo è il... Scusi, ma la sintesi brutale della giornata di ieri è che Berlusconi vince e Fini perde. Cioè, non so se è chiaro questo elementare concetto, che poi è alla base di qualsiasi sfida politica. La politica si svolge secondo un dualismo, no? Amico-nemico. Ha vinto Berlusconi, cioè, c'è poco da fare, questo è il dato. Quindi questo è un primo elemento importantissimo, tant'è che poi ne seguono conseguenze politiche enormi, e cioè il fatto che il gruppo di Future Libertà si è spaccato, il fatto che Silvano Moffa si è già iscritto al gruppo misto, il fatto che probabilmente nei prossimi giorni ci saranno ulteriori smottamenti dell'area finiana verso il PDL, cioè vi rendete conto? Un progetto che doveva cambiare l'Italia in 24 ore è praticamente liquefatto. Cioè, quindi prima considerazione politica, seconda considerazione politica, e anche qua sono stupito, cioè il solo fatto che Berlusconi abbia evitato col voto di fiducia il governo tecnico è un altro risultato di straordinaria importanza per chi sta al governo in questo momento. E ripeto, sono basito dal fatto che non si comprenda questo tipo di operazione. Sta di fatto che però insomma si cerca l'allargamento, lo stesso Berlusconi l'ha detto, si è avvicinato a Casini, perché altrimenti se non si puntella la maggioranza. Questa è la seconda tappa. Per essere sintetico, cioè Berlusconi adesso che cosa ha? Ha un mazzo di carte completo sostanzialmente in cui A, ha evitato il governo tecnico, B, ha evitato il ribaltone, C, non c'è altro governo all'infuori di questo con questo Presidente del Consiglio, D, ha il dovere di provare ad allargarlo, e se non riesce ad allargarlo e non riesce a governare, l'unica alternativa che c'è sono le elezioni anticipate. E allora, ditemi voi se questo non è, ovviamente, mettete tutto tra virgolette, nel senso che sì, certo, una vittoria politica. Se non è un capolavoro politico. Oppure qualcuno dice una vittoria di Pirro. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. L'editoriale di Antonio Padellaro oggi sul Fatto Quotidiano si conclude così: qualcuno pensa davvero di rispondere all'emergenza di un paese che ha sempre meno soldi, tanto meno futuro, con un governo incapace, con una maggioranza raccattata, con un premier impresentabile? La prossima volta chi manderanno incontro alle masse sempre più incazzate? Scilipoti? Direttore Padellaro, le chiedo, questa idea delle masse incazzate, cioè dell'idea che si voglia dare una spallata nel momento in cui il governo era in bilico, non è un po' pericolosa? Cioè ieri c'è stato un voto, è andato in un modo, si può discutere come, però è stato tutto una procedura democratica all'interno del Parlamento. Perché la gente è così incazzata fuori? Ma perché la gente è incazzata, chiediamolo a tutte le categorie che in questo momento stanno sui tetti o vanno per in piazza a dimostrare. Sono d'accordo con quello che diceva il sottosegretario Mantovano, in maniera legittima, con frange di violenti che vanno certamente condannati in tutti i sensi, quindi non è che lo scopriamo noi, lo scopriamo adesso che questo è un paese che profondamente in crisi e profondamente insoddisfatto, dalla Confindustria ai sindacati, via, non facciamo finta di credere che stiamo vivendo nella città del sole, non è la città del sole. Poi vorrei dire al collega Sechi, che io stimo, fine analista, che questa volta veramente non è azzeccata una, ma come si fa a dire che Berlusconi ha fatto un capolavoro? Allora, voglio seguire le sue modalità. Berlusconi aveva 100 deputati di maggioranza all'inizio della legislatura e adesso ne ha 3 raccattati chissà come nelle file del centro-sinistra, dell'Italia dei Valori, eccetera. 2, lui dice che è stato rottamato Fini, ma certo che Fini è stato sconfitto, è stato sconfitto tra l'altro in una battaglia molto complicata, ma chi ha detto che Fini è finito? Fini continua ad essere, i finiani continuano ad avere una forte rappresentanza alla Camera dei Deputati e vedremo nelle prossime settimane se i finiani voteranno con Berlusconi. Io ne dubito fortemente. Terzo, allargamento della maggioranza, ma non ci chiede neppure Berlusconi, è una barzelletta, ma come fa ad allargarla, con chi? Casini ha già detto che non ci sta e ha fatto bene, Casini è un politico navigato, ma volete che venga in soccorso di un governo moribondo? Quarto, la Lega ha detto chiaramente ieri attraverso le parole di Maroni che appunto se non si allarga la maggioranza si va alle elezioni, siccome la maggioranza non si allarga è già deciso che si va alle elezioni, a marzo insomma, dice. Berlusconi ha salvato ancora una volta la pelle, ma l'ha salvata nella maniera peggiore, cioè l'ha salvata soltanto perché, qui sono d'accordo con Sechi, siamo di fronte a un duello rusticano tra Berlusconi e Fini, che ovviamente si disinteressa completamente dei problemi del paese. Stiamo dentro il politichese, dentro le piccole manovre parlamentari, ma la gente questo non interessa. Sentiamo che ne pensa Raffaele da Ivrea, che ci ha chiamato 800 24 00 24. Raffaele, buongiorno. Sì, buongiorno. Dicchia. Buongiorno a tutti. Sì, anch'io volevo ribadire questo concetto. Mi sembra proprio questa immagine della politica di due caproni che fanno testa a testa e che uno vince e l'altro perde, è il contrario di quanto io ho sempre immaginato, la politica come mediazione, come ricerca del compromesso per il bene comune. Sono basito di fronte a queste situazioni, anche se sono qui che aspetto per vedere come va a finire. Va bene, la ringrazio. Senta, direttore Sechi, allora qua insomma, l'analisi politica, poi come al solito, come si è fatto tanti giochi sul pallottoliere, non è restato che attendere, e alla fine il pallottoliere ha dato 3 voti a Berlusconi. Ora non resterà che attendere, pare che gennaio sia la deadline. Effettivamente anch'io non la vedo come una possibilità, cioè insomma, adesso forse dire un capolavoro politico, è riuscito a ottenere un primo passo, però voglio dire, non ci si rende conto di una cosa. Berlusconi 48 ore fa era dato per morto, cioè era dato come un signore che era destinato ad andare ai giardinetti con i cagnolini e a fare la passeggiata del nonnino felice. Mi dispiace, ma non è andata così. Allora, se si vogliono cancellare tutte le dichiarazioni fatte prima del voto di ieri, benissimo, si può fare. Ma se ne teniamo conto, se teniamo conto dello scenario iniziale, se teniamo conto delle speranze e delle aspettative che si erano create sul voto del 14 dicembre, signori, Berlusconi ha fatto un capolavoro, ripeto. Poi lasciate perdere che il governo non ha i numeri per governare in sicurezza. Questo però dice un capolavoro questo, politico. Padellaro non è, non è, non è. No, volevo dire una cosa. Ma perché? Sentiamo, Padellaro, che vuol dire Padellaro? No, ma io invece vengo in soccorso di Sechi a proposito della forza di Berlusconi. Cioè, al di là della, secondo me, della catastrofe di questi giorni, è evidente che Berlusconi, siccome parliamo di cose serie, parliamo delle elezioni di primavera, non stiamo a perdere tempo, purtroppo avremo 3 mesi di agonia, di balletti. Sì, figurarsi la campagna elettorale, se è stato così un voto di fiducia, figuriamoci la campagna elettorale. Sarà quella campagna elettorale che immaginiamo, ma è evidente che Berlusconi mantiene un margine di maggioranza rispetto, non ha perso i consensi, se si votasse oggi, ecco, Berlusconi avrebbe di nuovo il premio di maggioranza. Il discorso qui va spostato sull'opposizione, cosa fa l'opposizione per evitare di perdere ancora le elezioni? Questa è la vera domanda. Secondo Iena, Riccardo Barenghi, oggi straordinario sulla stampa, la sinistra ieri era rassicurata nella sua identità. E vai, abbiamo perso ancora. Sechi, Di Pietro dice, ho chiamato i due deputati dell'Italia dei Valori, gli ho detto guardate, leggete il Vangelo, che c'è Gesù ma c'è anche Giuda. Poi vabbè, insomma, si sa, gli ha detto uno è un poveraccio, un altro un povero uomo, Scilipoti, un kamikaze dell'antiberlusconismo, è andata a finire così, insomma. Se si va alle elezioni chi vince, sai chi? Berlusconi. È la cosa divertente che io ho cominciato a guardare gli effetti che avrà la costituzione appunto del partito di Fli, ammesso che resista a tutta questa roba qua, e del terzo polo sul Senato. Ebbene, voi sapete che io raramente sbaglio le cose sulle cose elettorali, anche perché fui l'unico a dire che sarebbe sparita la sinistra radicale. Allora, l'effetto sul Senato potrebbe essere quello che per sottrazione di voti in realtà il PDL e la Lega prendono una caterva di senatori dove già sono forti, ne prendono un po' meno dove sono deboli, ma il vantaggio è tale che possono controllare perfino il Senato. Cioè ci troveremo nella fantastica situazione per cui Berlusconi governa sia la Camera che il Senato, mentre tutti parlano di un risultato in cui la Camera è governata e il Senato no. No. Attenzione, perché ancora una volta stanno sbagliando. Staremo a vedere, anche questa è politica e chissà. Ringrazio Mario Sechi, direttore del Tempo, e Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, per essere stati con noi insieme al sottosegretario Mantovano in apertura. Che dire, il 69% dei nostri ascoltatori non crede a un governo che si possa reggere su 3 soli voti, e poi diciamolo francamente, raccattati un po' così all'ultimo, insomma, con gente che ha cambiato idea all'ultimo momento. Do la linea a Oscar Giannino, che rimane a parlare di politica il giorno dopo la fiducia. Noi ci ritroviamo, con i ringraziamenti ad Alessandro Longoni in redazione, Peter Bescapè in regia, domani alle 7:20.